Oggi, 8 settembre, la Chiesa celebra con festa la Natività della Beata Vergine Maria e ha scelto di lodarla e di cantare le sue lodi proponendoci un brano del Cantico dei Cantici, capitolo 6 e Siracide, capitolo 24. È un brano questo del Cantico dei Cantici che la Chiesa ha riferito a diversi destinatari, al popolo di Israele che è la sposa dello sposo. L'ha riferita alla singola anima che è sposa di Gesù Cristo. L'ha riferita alla Chiesa. La riferisce a Maria Santissima. E questa è una scelta che è testimoniata dallo stesso brano, perché ricorderete tutti quel canto dei nostri padri dell'aurora, tu sorgi più bella, bianca tu sei qual sole, bianca più della luna. E infatti sta scritto queste parole: chi è costei che sorge come l'aurora? Dell'aurora tu sorgi più bella. Bella come la luna, bianca come la luna, fulgida come il sole, terribile come un vessillo di guerra. Io sono la madre del bell'amore. Cari amici, queste parole io ve le leggo perché le teniamo presenti, ma andrebbero gustate individualmente. Prima della messa, una di voi, se le lette sul messalino, poi si gira verso di me e dice: che bel brano. È vero? Gustare la parola di Dio. In questo caso riferendola a Maria, la madre del bell'amore, della conoscenza, della santa speranza. Maria dona anche a noi la conoscenza delle cose spirituali, dona anche a noi la speranza santa. In me ogni dono di vita e di verità. È inutile che andiamo a cercare in pozze inquinate se io penso quanto il nostro mondo va cercando in giro da tutte le parti, abbeverandosi a mille sorgenti, quando invece l'acqua pura sta in Maria, sta nella fede. In me ogni speranza di vita e di virtù. O Maria, rendici partecipi della tua vita, della tua virtù. Avvicinatevi a me, ci invita Maria. Voi che mi desiderate e saziatevi dei miei frutti. Quali sono i frutti di Maria Santissima? Io li raccoglierei in una sola parola: le virtù, tutte le virtù, le virtù teologali, le virtù cardinali. Non so se sappiamo ancora cosa vogliono dire queste parole, però le virtù umane, le virtù soprannaturali, tutte le virtù. Voi che mi desiderate, saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi vale più del favo di miele. E il mio ricordo perdura nei secoli, come è vero. Il ricordo di Maria non verrà mai meno nella Chiesa, non verrà mai meno nell'umanità. E dunque diciamo, o Santa Chiesa di Dio, tu che sei la sposa del principe, del re. E infatti il Salmo responsoriale 86 dice esattamente queste cose, parla di Gerusalemme e la Chiesa è la nuova Gerusalemme. O Santa Chiesa di Dio che ci regali Maria Santissima, donala con abbondanza a noi che già la amiamo, ma fa in modo, attraverso lo Spirito Santo, lo mistico sposo di Maria Santissima, che Maria sia conosciuta, sia amata, sia gustata, sia goduta da tutte le persone di questo mondo.